in primo piano. Bene, buongiorno. Oggi la maggior parte dei giornali titola sullo storico accordo tra il presidente americano e il presidente russo sul taglio delle armi nucleari, e poi altri giornali invece titolano sul G8. Ma vediamo un po', facciamo un po' una carrellata delle prime pagine. Cominciamo dal Corriere della Sera, che titola "Via un terzo delle armi nucleari. Patto tra Obama e Medvedev. Basta sospetti e rivalità". Anche La Stampa si dedica a questo tema: disarmo, patto USA-Russia, storico accordo sul taglio di missili nucleari, ma sullo scudo è gelo. Repubblica: USA-Russia, patto per il disarmo, storico accordo Obama-Medvedev, divergenze sullo scudo stellare. L'Avvenire: USA-Russia, il disarmo possibile. Il trattato prevede l'eliminazione di oltre 2.000 vettori ed entrerà in vigore entro l'anno. Rimane aperto il fronte dello scudo spaziale. E Il Sole 24 Ore apre con un titolo di politica internazionale, ma non su questo tema, invece diciamo che è un titolo di economia internazionale. I grandi accordi Italia-Cina. Firmate intese per 2 miliardi di dollari tra 800 imprenditori. E ieri c'è stato a Roma un incontro tra gli imprenditori italiani e gli imprenditori cinesi, alla presenza del presidente cinese Hu Jintao, che in questi giorni è in visita in Italia. Passiamo ora invece a un gruppo di giornali che titola sul G8. Il manifesto, che ha sempre un titolo ad effetto, oggi apre con un titolo G-botto, che è abbastanza significativo. E il Foglio invece ha un titolo più discorsivo, come usa questo giornale: il G8 si prepara a parlare di Iran, ma non conosce ancora il piano di Obama. Europa, organo del Partito Democratico: USA e Russia fanno da sé, a Berlusconi restano il G8 e i cortei. Libero invece titola sempre sul G8, ma con un occhio alle vicende del Presidente del Consiglio. Veleni porno sul G8, piano progressista contro Berlusconi, far credere che esistano foto osè mentre inizia all'Aquila il summit. Un collaboratore di Silvio: vi svelo i segreti di Villa Certosa. L'Unità titola anch'essa sul Presidente del Consiglio, ma con ovviamente un taglio ben diverso. Scrive "la scomunica" e si riferisce a quanto sostenuto da Monsignor Crociata sulla vicenda degli incontri del Presidente del Consiglio. Il giornale anche egli si dedica a questo tema, ma parlando di complotto, tutti i segreti del complotto assalto a Berlusconi. La sinistra e i giornali amici le hanno provate tutte per abbattere il premier, ma senza alcun risultato. Ora sono alla caccia disperata di un nuovo colpo. Vi sveliamo come si muovono per l'ultima scossa. Scossa è un termine che è stato usato, come vi ricorderete, da Massimo D'Alema. Diversa invece l'apertura del Riformista, che titola "Riecco in no global, la retata della polizia, blitz dell'Onda, occupati 3 rettorati contro i 21 arresti, oggi cortei". Giornali più propriamente politici: Secolo d'Italia e Padania invece aprono sulla questione delle badanti. È un tema che era più sfruttato ieri dai giornali, ma oggi ci ritornano. Il Secolo d'Italia titola "prima le persone, badanti a rischio, dal PDL la richiesta di soluzioni per aiutare le famiglie". Invece la Padania dice "l'esercito delle false badanti, falsa una domanda su due. Grazie a una norma voluta dai ministri Ferrero e Damiano nel marzo 2007, un immigrato può assumere la moglie e la zia. E il permesso di soggiorno arriva subito, ma non solo". Bene, ora passiamo a esaminare invece un po' i contenuti anche dei giornali di questa mattina. È interessante che si parla di etica dell'economia. È interessante perché poi c'è un'enciclica papale su questo tema, per cui è un tema che assume un grande rilievo. Il Corriere della Sera comincia con un editoriale di Massimo Gaggi in prima pagina, titolato "Il passo giusto delle 12 tavole". Scrive Massimo Gaggi: "Nuove regole etiche per il capitalismo. Già oggi sappiamo che, almeno sul tema spinoso della riforma delle regole della finanza, non si arriverà ancora alla stesura di un documento definitivo, vincolante per tutti. Probabilmente non ci riuscirà nemmeno il G20, che si riunirà a settembre a Pittsburgh, nonostante che questo organismo allargato alle nuove potenze economiche, dalla Cina al Brasile e ai paesi emergenti, sia ormai generalmente considerato una sede più adatta del direttorio dell'Occidente alla definizione di misure di portata globale. Il documento della Chiesa si riferisce poi al documento, si riferisce al documento dell'OCSE approvato dal ministro italiano Giulio Tremonti e dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dice: il documento fissa obiettivi ambiziosi, nuovi standard per la trasparenza dei mercati, smantellamento dei paradisi fiscali, calmiere per i super stipendi dei banchieri, parametri legali minimi anche per la difesa dell'ambiente e dei lavoratori. Prediche inutili? Domanda einaudianamente Massimo Gaggi. Chi ha fin qui considerato i discorsi sull'etica negli affari alla stregua di sermoni dovrebbe decidersi a voltare pagina, visto quello che è accaduto negli ultimi 2 anni. E il lavoro fatto sull'asse Parigi-Ocse-Roma-Berlino dovrebbe rappresentare un buon inizio. E poi, sempre in prima pagina, il Corriere riporta anche invece l'etica nell'economia nell'enciclica del Papa. Ecco la Caritas in Veritate. Nell'incipit Benedetto XVI spiega il nesso essenziale tra carità e verità e poi prosegue trattando il tema della crisi. Dobbiamo assumere con realismo fiducia e speranza e le nuove responsabilità a cui ci chiama lo scenario di un mondo che ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale e della riscoperta di valori di fondo su cui costruire un futuro migliore. A questo tema, come vi dicevo, si dedica anche il Foglio. Anche il Foglio ha in prima pagina l'enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. A prima vista sembra strano, scrive il Foglio in un articolo non firmato come usa questo giornale, a prima vista sembra strano che il Papa tiri in ballo il peccato originali e simili arnesi da catechismo per parlare di temi sociali. Dissipa il dubbio il vescovo di San Marino Luigi Negri, filosofo e teologo. Il Papa ripropone in maniera profondamente attuale una convinzione tradizionale della dottrina sociale della Chiesa, che la storia non è determinismo meccanicistico in cui basta conoscere la legge sociologica ed economica per possedere il senso dell'avvenimento. Il mondo umano è un mondo di libertà e gratuità che possono esprimersi come affermazione e come negazione. Volevo poi, ecco, passare anche invece al Sole 24 Ore, che ha un articolo di fondo che non parla direttamente dell'etica del capitalismo, ma si richiama invece alla crisi bancaria e al documento di Angela Merkel che abbiamo già citato. Il fondo di Marco Onado si intitola «Le ricette nazionali non risanano le banche». Marco Nado scrive: l'Europa purtroppo sembra distinguersi in questo non invidiabile primato in cui il contrasto fra dichiarazioni di principio e passi concreti è sempre più sconcertante. Il fondo su Sole 24 Ore prosegue dicendo: i principi sono enunciati con grande chiarezza. Angela Merkel, in un'intervista al Wall Street Journal del 3 luglio, ha ribadito la necessità di una profonda riforma del sistema finanziario globale, che verrà discussa questa settimana al G8 dell'Aquila. E ha anche paventato il pericolo che le banche che si trovano nuovamente in buone condizioni possano ostacolare le riforme. Il commissario europeo Nelly Kroes ha ipotizzato interventi anche più pregnanti. Parlando dell'associazione bancaria britannica, la responsabile UE per la concorrenza ha infatti affermato che occorre riportare il più presto possibile le banche inglesi a una situazione di normalità e a modelli di business che le inducano a focalizzarsi su ciò che esse fanno meglio. Cioè, questo è un riferimento al fatto che il sistema bancario anglosassone, britannico in particolare, cerca di svincolarsi dalle norme comunitarie. Ecco, l'altro grande tema che viene affrontato dai giornali di oggi è quello della dell'intervento della Chiesa, di Monsignor, in particolar modo di Monsignor Crociata, su Santa Maria Goretti, che è stato letto come un rimprovero al Presidente del Consiglio, come un riferimento al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Nell'articolo, in realtà nell'omelia di Monsignor Crociata, non si parla esplicitamente di Silvio Berlusconi, il Presidente del Consiglio, ci si riferisce a questa santa che molti ricorderanno è stata uccisa durante uno stupro, è stata uccisa perché resisteva a un tentativo di stupro e prima di morire perdonò il suo assassino. L'Avvenire, nella pagina cattolica, ha un articolo di Salvatore Mazza titolato Crociata, Monsignor Crociata ovviamente, Santa Maria Goretti, fedeltà a Dio e alla coscienza. Scrive Salvatore Mazza: ciò a cui oggi assistiamo è un disprezzo esibito nei confronti di tutto ciò che dice pudore, sobrietà, autocontrollo. È lo sfoggio di un libertinaggio gaio, irresponsabile, che invera la parola russuria con cui fin dall'antichità si è voluto stigmatizzare la fatua esibizione di un'eleganza che in realtà mette in mostra uno sfarzo narcisista, salvo poi alla prima occasione servirsi del richiamo alla moralità, prima di tutto dileggiata a parole e con i fatti per altri scopi di tipo politico, economico o di altro genere. Ecco, appunto, come vi dicevo, in queste parole molti giornali hanno letto un attacco al Presidente del Consiglio e a Silvio Berlusconi. E in questo senso va l'articolo dell'Unità, pagina 5, in cui Yolanda Bufalini intervista lo storico Alberto Melloni. Tra i vescovi sta crescendo il disgusto, la loro condanna non nasconde alcun calcolo, è il titolo dell'articolo. La domanda di Yolanda Bufalini: Monsignor Crociata non nomina il Premier, ma il riferimento sembra preciso. Parla di libertinaggio gaio e responsabile, quello che abbiamo appena letto sull'Avvenire, e aggiunge: non sono affari privati. Starei attento a interpretare ogni battuta come riferita alla cronaca politica, dice Alberto Melloni, ma mi pare evidente che da parte della Conferenza Episcopale ci sia una sensazione un po' disgustata davanti a quello che viene fuori, e sarebbe da meravigliarsi al contrario. Dopodiché, quella di Monsignor Crociata era un'omelia su Santa Maria Goretti, una martire morta per stupro, e il linguaggio è legato a quella circostanza. Ma la CEI si esprime oggi con più libertà di quanto non facesse prima delle elezioni, perché non si vuole dare l'impressione, anche rispetto al passato, di usare la propria autorità per spingere una parte dell'elettorato al di qua o al di là del fosso. Bene, ora interrompiamo la rassegna stampa perché c'è Strade in diretta. In primo piano. Bene, riprendiamo la rassegna stampa di Radio 24. Stavamo parlando dell'intervento di Monsignor Crociata su Santa Maria Goretti, letto come un attacco al Presidente del Consiglio. Avevamo letto quanto sosteneva l'Avvenire e un'intervista a uno storico, allo storico Alberto Melloni sull'Unità. Ora volevo invece passare a un fondo su Repubblica di Gad Lerner, un fondo che comincia in prima pagina, che si riferisce a questo argomento. Gad Lerner scrive: la presa di distanza della Chiesa dal premier lussurioso e libertino incrina l'egemonia di Berlusconi sull'Italia moderata e dunque cambia lo scenario politico della legislatura. Poiché il sovrano nella tradizione cattolica è un interlocutore sulla cui moralità si può anche chiudere un occhio, ma solo fin tanto che la sua contrapposizione al modello di comportamento predicato dalla dottrina viene sottaciuta, non conclamata, di fronte al popolo. Il re non può essere nudo, in pratica. I vescovi non potevano rischiare, ancora nell'attesa della prossima fotografia imbarazzante o di un'altra testimonianza, di donne pagate per soddisfare la voglia del capo. Continua Gad Lerner: la corda tesa come in nessun'altra nazione infine si è spezzata, imponendo all'Italia la condizione femminile come questione politica primaria, dirompente al di là delle aspettative di un'opposizione che su questo terreno è rimasta muta, perché vittima anch'essa della medesima arretratezza culturale. Del tutto differente invece è la tesi esposta da Libero. Libero dice che la Chiesa li condanna sì i peccatori, ma li preferisce e fa Vincenzo Vitale, in un articolo che comincia in prima pagina, fa un riferimento alla storia della Chiesa. Dal punto di vista quello personale, la Chiesa ha da ricercare in via privilegiata il rapporto con i peccatori, andando alla ricerca di questi e non delle persone pie, tanto che non si sbaglia affermando che di grandi peccatori convertiti è fatta la Chiesa. Si pensi a Maria Maddalena, a San Matteo, al centurione romano. Ecco, anche qui ovviamente non ci sono riferimenti espliciti a nessuno, resta da capire se il peccatore, se i peccatori ai quali si riferisce Libero comprendano o meno il Presidente del Consiglio. Infine c'è un corsivo di Massimo Gramellini sulla stampa che è piuttosto che si richiama un pochino a quello che diceva prima Gad Lerner, cioè alla moralità. E Massimo Gramellini si riferisce al provvedimento del sindaco di Venezia che ha vietato una fiera del sesso a Marghera, dicendo che potevano esserci problemi di incontinenza da parte dei partecipanti e quindi ha impedito che questa manifestazione si svolga. Scrive Gramellini: per una di quelle ironie che rendono irresistibile la storia, la sinistra, che da giovane combatté contro il perbenismo dei padri, si ritrova a mettere in pratica da anziana quei si fa ma non si dice e si fa ma non ci si fa vedere che costituivano l'ossatura della vecchia e pudica borghesia. Ad aver ereditato la spudoratezza gagliarda della gioventù sessantottina sembra essere stata invece la destra, che ostenta i propri vizi con orgogliosa sfrontatezza, quasi non fossero una necessità ma una virtù. Bene, ora volevo cambiare tema e passare invece al G8, anche qui però poi è un cambio relativo perché comunque il protagonista è sempre il Presidente del Consiglio, che presiederà il G8, come tutti sappiamo. Mario Giordano, direttore del giornale, firma un fondo titolato Quelli che tifano per il terremoto e scrive: infatti, nonostante i grandi sforzi messi in campo da Repubblica e dai suoi fratelli, siamo arrivati al G8 senza nessuna scossa, dalinianamente parlando. Il paventato avviso di garanzia formato jukebox, insert coin, non è saltato fuori, almeno fino al momento in cui scriviamo. Non si sa mai, si cautela Giordano. E i grandi della Terra, che qualcuno aveva ipotizzato potessero disertare il vertice, si presenteranno tutti con puntualità brianzola o cinese, con tanto di First Lady al seguito. Invece Repubblica ha, sempre riferita al G8, un'interessante ricostruzione di Boris Bianchieri. Boris Bianchieri, per chi non lo sapesse, è un ambasciatore, è stato un importante diplomatico italiano e rievoca un pochino la storia di questi vertici, quando erano dei vertici ristretti a cui partecipavano poche persone e invece poi sono stati allargati per la necessità di far partecipare nuovi protagonisti della storia, della scena internazionale. La Russia, per esempio, un partner indispensabile e prezioso, scrive Biancheri, con il quale, come vediamo in questi giorni, si negozia, ma con il quale sussistono anche posizioni di fondo che sono molto distanti. Da strumento di concertazione e raccordo, il pianeta del G8, che dopo la Russia ha inglobato altri paesi, anzi interi altri continenti, è diventato un foro di negoziazione globale che in teoria aspira a disciplinare l'intero stato del mondo, cioè una specie di ONU senza regole scritte. Bene, ora ci stiamo avviando alla chiusura e io volevo leggere un passaggio della interessante intervista del Premier turco Erdogan al Corriere della Sera. Sappiamo che la Turchia è da tempo, da decenni, in attesa di entrare nell'Unione Europea, ed è sempre tenuta alla porta. E parteciperà al vertice dell'Aquila e Antonio Ferrari intervista il premier di questo grande paese, di un paese di 80 milioni di persone. Dice: vi è stato chiesto di modificare l'articolo 301 del codice penale che punisce con il carcere chi offende l'identità turca, accusa che era stata rivolta al premier Nobel Pamuk. E noi l'abbiamo modificato, dice Erdogan. Dico di più, abbiamo consultato e studiato i codici penali di Italia, Germania e Spagna. Posso dirvi che il nostro articolo 301 è migliore del vostro, nessuno è finito in carcere. E poi, e prosegue per la domanda di Ferrari, ma non sarebbe ora, signore Erdogan, di fare i conti con la vostra storia? Pensiamo agli armeni, vittime di quello che molti storici considerano un genocidio. Non esiste un solo documento che lo provi, scrive Erdogan, uno solo. E poi pensate che 40.000 armeni continuerebbero a vivere in Turchia? Sono gli armeni di altri paesi che diffondono notizie e interpretazioni non corrispondenti alla realtà. Naturalmente gli armeni di altri paesi, e non solo quelli di altri paesi, invece parlano di genocidio, parlano di vittime tra il milione e il milione e mezzo dopo il 1915, massacrate, uccise dalla Turchia, dalla nuova Turchia di Kemal Atatürk. Un'altra segnalazione sul Riformista, c'è un intervento di Deborah Serracchiani, un po' la giovane emergente del Partito Democratico. Ricordiamo che ha preso una valanga di voti in Friuli, alle europee in Friuli Venezia Giulia, lei vive a Udine, e parla del nuovo Partito Democratico, il sogno di una grande forza riformista che tutti noi avevamo coltivato con le primarie del 14 ottobre è in questo momento indebolito, ma abbiamo il dovere di provare a realizzarlo. Per questo il primo che andremo a affrontare sarà un congresso decisivo. Bene, con questo si conclude la rassegna stampa e l'appuntamento è per domani alle 7:30, e ora la linea torna a 24 mattina con Alessandro Milan. Grazie.